per la calma che stiamo dando a questo momento così concitato per chi organizza. Ancora qualche minuto e poi partiamo con la prima performance. Grazie a tutti! Insieme torneremo con una, non una, non una di meno. Allora ringraziamo il collettivo War Voice per questa meravigliosa performance che apre la nostra giornata di lotta. Lascio la parola a una persona del collettivo. La nostra autodeterminazione vuole operare attraverso l'arte che si ribella e che trasforma. Veniamo violentate, così come la terra, attraverso l'estrattivismo colonialista e capitalista. Oggi rivendichiamo il nostro diritto di sentirci animali, rompendo l'idea di specie superiori e di specie inferiori. Vogliamo decostruirci per tornare ad essere libere identità in armonia con la terra e con tutti gli ecosistemi che sono i nostri territori, che oggi più che mai ci riprendiamo e che ci appartengono. Al di là della violenza patriarcale e della propaganda fascista e misogina di questo governo e di tutti quelli precedenti, noi continueremo a resistere oggi e sempre in tutto il mondo, in Italia, in questa giornata, con il nostro transfemminismo che non solo deve essere il 25 novembre, ma che rivendichiamo ogni giorno a partire dai nostri spazi e ce li riprendiamo, le piazze, le scuole, ogni luogo ci appartiene. Oggi e sempre, grazie mille per questo spazio, non una di meno, in tutta Italia, in tutto il mondo. Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, Azadi! Azadi! Donna, vita, libertà! Donna, vita, libertà! Hanno detto, vi vogliamo aiutare! Tramite i canali diplomatici abbiamo detto, noi per vincere la nostra rivoluzione non abbiamo bisogno del vostro aiuto. Noi siamo qui per chiedervi di smettere di aiutare il nostro nemico, il regime iraniano, il regime criminale iraniano. Viva la rivoluzione! Viva donna, vita, libertà! Di merda che ci è successa ieri, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e su tutte le libere soggettività. Noi siamo andati allo spazio a fare uno di quegli striscioni che vi ricordate, uno di quelli che portiamo ogni anno, e abbiamo trovato il nostro spazio chiuso da dentro. Ci hanno fatto un buco nel muro, sono entrati e ci hanno cambiato tutti i lucchetti e tutte le catene dello spazio. Vi starete chiedendo, ma sono state le guardie? No, raga, no. Magari avremmo preferito. È stato un uomo di merda, è stato il nostro vicino, a cui abbiamo sempre impedito di entrare, perché era uno dei clienti del nightclub che esisteva prima del nostro spazio. Era abituato ad andare lì a pagare, a sfruttare le donne che ci lavoravano dentro, e da quando ci siamo noi non ci ha più potuto mettere piede. A un certo punto ha deciso che non poteva più accettarlo, e quindi ieri ha imboccato, ha pagato qualcuno per sfondare i muri, le catene e cambiare tutto, sperando che noi ci saremmo fermate, sperando che ci avrebbe fatto paura. No, raga, ieri sera e stamattina abbiamo già riaperto lo spazio. Siamo felicissime di essere riuscite ad arrivare anche al corteo, ma affanculo, non ci fai perdere manco il corteo. E sappiamo che domani c'è l'assemblea, ma l'assemblea è proprio dietro il nostro spazio. Noi saremo lì tutto il giorno, se volete a pausa pranzo o a fine assemblea raggiungeteci e facciamogli vedere che se toccano una rispondiamo tutte. Siamo! dopo un minuto di silenzio la manifestazione esploderà in un grido di rabbia, di gioia, di desiderio, in cui ognuno di noi potrà mettere tutto quello che sente per portare qui la voce delle persone che non l'hanno più, delle donne che non l'hanno più. Quindi vi chiediamo veramente di metterci in cuore in questa cosa, come facciamo noi. Grazie. Femminilizzate e razzializzate, vengono tagliate fuori dalla storie vengono tagliate fuori dai nostri libri di testo, dalle nostre scuole, dalle nostre università. Ma noi non ci stiamo, vogliamo superare questo sapere patriarcale e costruire saperi tra femministi di liberazione. L'ondata transfemminista da questo corteo travolgerà le scuole e le università. Vogliamo decidere ciò che ogni giorno ci viene insegnato. Vogliamo un sapere transfemminista e decoloniale. Non ci basta essere una nota a margine. Vogliamo studiare la storia delle soggettività cancellate da questo sapere. Vogliamo educazione sessuale e sentimentale a partire dalle scuole. Vogliamo conoscere i nostri corpi. Vogliamo strumenti per riconoscere la violenza e contrastarla alla radice. Noi non accetteremo più questo modello di educazione e di formazione patriarcale. Siamo furiose e saremo maleducate. Una volta saputo cosa devi fare ti guardano male, si deve essere pronti e caparbie. Non danno assorbenti, non danno acqua per prendere le pillole, non ti danno il pasto. Sicilia 2020. Effettuano aborti trattando le donne con molta freddezza e poco tatto. Permettono al comitato antiabortista di sostare fuori dalla clinica nei giorni in cui si opera per volantinare e offendere le donne che ricorrono a tale soluzione. Campania 2021. Ciao a tutte, tutti e tutto. Le parole che avete appena ascoltato sono testimonianze arrivate ad Obiezione Respinta. Oggi Obiezione Respinta scende in piazza. Con noi abbiamo portato le voci delle persone che hanno subito violenza quando hanno scelto di interrompere una gravidanza. Voci potenti, coraggiose, lucide, di persone che nonostante siano riuscite ad accedere all'aborto hanno subito colpevolizzazione e violenza. Obiezione Respinta ascolta queste voci e le restituisce. Sulla nostra mappa segnaliamo strutture che non garantiscono l'accesso all'IVG e che pur garantendolo stigmatizzano le persone che ne fanno ricorso. Pubblichiamo le testimonianze che ci arrivano per narrare l'IVG per quello che è, l'espressione dell'autodeterminazione di una persona e in quanto tale è un momento di gioia ed empowerment. Oggi Obiezione Respinta scende in piazza perché destigmatizzare l'IVG richiede un profondo cambiamento culturale che non riguarda solo l'IVG ma anche la salute sessuale e riproduttiva. Crediamo che essere presenti è ciò che possiamo fare per attuare questo cambiamento. Presenti nell'ascolto delle persone che ci scrivono, presenti per accompagnare persone che vogliono abortire e gli viene impedito. Presenti per mettere in relazione ed amplificare le voci che urlano il dolore di chi sente la propria autodeterminazione calpestata. Presenti nel segnalare le strutture e sanzionarle. Presenti insieme, affinché insieme la nostra rabbia faccia paura a chi nega i nostri diritti. Insieme e presenti, perché la potenza del nostro essere insieme generi quell'amore per la vita, ma la vita davvero, che passo dopo passo, come oggi in questo corteo, porterà la liberazione di ogni corpo. Ma quale è stato? Ma quale Dio? Sul mio corpo decido io. Ma quale è stato? Ma quale Dio? Sul mio corpo decido io. Come ci hanno insegnato le femministe nere ed afroamericane, un approccio che tenga al centro il fatto che viviamo le disparità sociali ed economiche che attraversano le nostre vite, perché il diritto all'aborto è parte di un terreno di lotta che ci deve vederci uniti. Il diritto all'autodeterminazione di corpi e territori e alla giustizia sociale ed ambientale sono da decenni sotto attacco in tutti i territori di sacrificio d'Italia. Gli inceneritori, la terra dei fuochi, le emergenze dei rifiuti, le mancate bonifiche dei SIN, l'alta velocità e tutta la violenza ambientale ci impone un'esposizione alla contaminazione per cui ci viene tolto il diritto alla salute e sciamballiamo di tumori, endometriosi, asma. Di semi, di orgasmi e piaceri, sappiamo ricette di antichi saperi, sappiamo più forte dei desideri, rompiamo le gabbie, rompiamo gli schemi, saltiamo confini, muri, frontiere, rompiamo le gabbie, rompiamo gli schemi, saltiamo confini, muri, frontiere. Riprendiamocelo tutto il nostro potere, suoniamo a tamburo, piede con piede, l'animale, la pianta, la terra lo chiede. Arcobaleni di diversità, si impigli nella sua lingua bifortuta. E Con la nostra potenza rispondiamo alla vostra sistemica violenza. Basta con il patriarcato, la streghitudine non è reato. La follia, il peccato l'hanno inventato in questo stato. Rivolta è la parola che ci unisce, il ritorno dello stregu qui non finisce. Brividi, bodidi e bu, diventa stregu pure tu. Brividi, bodidi, bu, diventa stregu pure tu. Brividi, bodidi, bu, diventa stregu pure tu. Gridiamo, basta alla paura, libertà, la nostra cura. Gridiamo, basta alla paura.